It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il macabro ciclo della vita e della morte non conosce pause, K e Drago si scambiano opinioni fondamentali sulla sfera di influenza del reality show. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you calmly but sincerely to turn off your radio now. Tell me Louise. Ma cos'è sta voce ancora? Guarda che secondo me è tedesco, Drago. Devi Devo imparare il tedesco per capire quello che dice. Ma tu lo sai il tedesco? Io allora, lo so, dice di lineare Verstärkung. Cosa vuol dire? Non lo so. Sembra una cosa elettrica. Ma magari è per, sai, questa puzza con l'elettricità non c'entra niente, eh? Sì. Comunque, Thelma e Louise. Thelma e Louise, cioè, c'entra con Thelma e Louise, Drago, non sono solo le protagoniste di un famoso film lesbico, è inutile che mi guardi così. No, non sapevo. Sono anche due galline color rosso scuro che stanno conquistando il mondo con un reality show online. Tu, cioè, non lo sapevi? Galline, ma... in un reality show. Cioè, tu vai su www.barbomba.com, sì. Barbumba, credo, e potrai vedere in diretta quel che succede nel pollaio di Thelma e Louise. Due galline. Sì, ci sono varie webcam piazzate in posizioni strategiche e tu guardi il pollaio. Il pollaio è in Belgio, è nella campagna intorno a Bruxelles. In Belgio. Ma chi è venuto a questa idea fantastica? Ai padroni fricchettoni di Thelma e Louise. Che ne sai che sono fricchettoni? Beh, ma dai, ti sembra che a dei contadini normali possano venire in mente cose così come il reality show con le webcam? Vabbè, sono fricchettoni. Scusa, voglio capire, cosa fanno queste due galline? Ma cosa vuoi che facciano? Non lo so, beccano il mangime, camminano nel fango, nel recinto, si annoiano. E gli spettatori? Anche? Appunto. Sì, però nonostante tutto il sito è molto visitato. Sì, certo, è molto visitato, però apri, guardi due secondi, chiudi e non torni più. Ma no, ma non è vero, c'è anche un forum che ospita i fan di Thelma e Louise, ma ci sono discussioni, ma sì, ci sono discussioni tipo: è giusto montare una tenda di nylon per riparare le galline dalla neve? Vabbè, interessante. Ma l'hanno poi fatta la tenda? Sì, però poi è crollata sotto il peso della neve, per cui adesso le galline sono di nuovo libere nel cortile, solo che se ti colleghi a quest'ora è tutto buio, quindi non le vedi lì al freddo, purtroppo. Ma che ora è? Sai che effetto fa la mezzanotte in una città del mezzogiorno? Confonde le onde radio con il mare. La fabbrica di polli. Perché i polli, attenzione, i polli quelli che fanno fuori i giovani, e io non sono fra quelli, io la dispensa. Quelli stanno al buio per 6 settimane e li tagliano il becco, glielo segano. È vero, eh? Io ce l'ho il becco, però. Ne ho prese tante, di beccate, però io il becco ce l'ho ancora, e se mi capita qualcuno tra le palle, io lo becco, e lui se ne va col suo becco tutto arrotondato, perché poi glielo, come si dice, glielo piallano, e adesso sono troppo, il battimento diventa una follia. La fabbrica di polli. Sir, do you feel? I feel. Any hope for the world? No. That's good. Thelma e Louise. Vabbè, Thelma e Louise, ok. Thelma, oggi... Secondo me ha detto Thelma e Louise la voce. Non si, sì, può darsi. Di Neare Frechterkunk, Thelma e Louise. Sembra che faccia senso. Vedi? Fa senso. Mi sembra che abbia senso. Fa senso, fa molto senso, Drago. Comunque, oltre a Thelma e Louise, che sappiamo essere due polli protagonisti di un reality show belga. Sì. Oltre a loro due, oltre a essere anche un film manifesto lesbo, okay, abbiamo già detto, Thelma e Louise mi fanno venire in mente i reality show veri, non quelli so perché, normali, quelli delle persone umane, quelli lì, quelli nati col Grande Fratello tanti anni fa, che sembrano ancora adesso nuovi e invece in realtà sono già vecchi e marci. È vero, sono bolliti perché se vogliamo andare a vedere, ci sono dei ragazzini adesso che hanno 16-17 anni che legheranno la loro infanzia televisiva a Pietro Taricone e a Cristina Plevani. And the animals suffer. Così come noi abbiamo avuto in mente per tutta la vita Ricky o Ricci, Cunningham, Fonzi e Pozzi. Non so se sia meglio Pozzi. Sì, l'UR format è vecchio, consolidato e conservativo. Perché ormai esistono batterie di polli da reality che ogni anno entrano nella fabbrica del reality per farsi cucinare a dovere e poi per cucinare a dovere i telespettatori polli. Quindi la fabbrica di polli fabbrica anche questi polli da reality che devono avere delle caratteristiche ben precise. Precisissime. Innanzitutto l'intelligenza. Non si deve intimorire il pubblico, quindi il livello intellettivo del pollo da reality deve fermarsi nettamente al di sotto della media nazionale misurata per difetto. Poi l'accento marcato. Marcato! Ogni tipo d'accento e di inflessione rende simpatico il pollo. Simpatico! Quindi, se per caso il pollo in questione parla un perfetto italiano standard, buonasera, deve essere invitato a inventarsi un forte accento, meglio se toscano, buonasera, o napoletano. Buonasera, o quello del Roma. Buonasera, o romano. Meglio se toscano. Buonasera. O romanesco. Buonasera. Anche se trentino. Guten Abend. Infine, l'appeal televisivo. Dalla bellissima stangona russa al ragazzo down, autonomo e indipendente. Salve. I polli da reality devono avere qualcosa che li faccia ricordare alla prima occhiata. La seconda occhiata potrebbe essere pericolosa. Perciò questi polli devono essere innanzitutto capaci di indurre continue prime occhiate nei telespettatori. Tu, Drago, ad esempio, alla prima occhiata sei già dimenticabile. Eh beh, meglio. Sei meno telegenico del ragazzo down. Autonomo e indipendente, però. Come trans russa ti vedrai meglio. Il bello YouTube faccio vedere il mio episodio a 2€. 50 euro. 50. Che cosa succederà adesso? Qualcuno ha una seppur vaga idea di quello che sta succedendo tra i mefitici miasmi della fabbrica di polli? Il pollo in sbattimento. Il mangime! Dov'è? La coppia in crisi. L'altra chi? Cosa c'entra? Chi è l'altra? Che ora è? Le intercettazioni telefoniche. Sono in galleria, tra un po' potrebbe cadere. Cosa? Per capirne di più, forse è necessario far passare il weekend e sintonizzarsi di nuovo dal lunedì al venerdì a mezzanotte su Radio 3 per i prossimi temerari allestimenti de... La Fabbrica di Polli. La Fabbrica di Polli, un programma di Kappa e Drago, con Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Camilla Frontini, Giovanni Franzoni, Luca Gemma. Barlumen.com. La Fabbrica di Polli @rai.it. La Fabbrica di Polli produce, non chiude, non chiude. La Fabbrica di Polli produce, non nuoce, quasi mai. Good night, ladies and gentlemen, good night.